e già tremo nelle tue chiavi, penetro nei tuoi occhi, chiusi sono il cielo che guardi dal vetro, il mare davanti, l'appetito soffitto, il sorriso che non trovi più, e tu pensavi davvero che provare a volare senza me era bello, ma tu non hai ali, e tu da vecchia catena mi hai scansato e posato, ed ora ti trovi a spezzare questi giorni. Respiro nelle tue mani, sono io quell'intenso odore, ti lavi con forza poi esci, ma ovunque mi senti, ora urlo nei tuoi silenzi, sono il chiasso dei nuovi amici, ma tra un po' sarò il trillo che senti salendo le scale, al telefono corri rispondi, non ci sono più, e tu pensavi davvero che provare a volare senza me era bello, da vecchia catena mi sgrassato e posato, ed ora ti trovi a spezzare questi giorni tutti uguali, spengo così la tua luce ma non t'addormenti, nello specchio ti tocchi, mi vedi.